Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Scandalo FIFA, Blatter annuncia le dimissioni ma sceglie i tempi della sua uscita di scena. Regionali è scontro all'interno del PD, De Luca denuncia Rosy Bindi, lei replica è solo un atto strumentale. La mossa della Grecia, Tsipras presenta la sua proposta per risolvere la crisi con l'Unione Europea. Due giorni o festa della Repubblica, dunque festa ma anche prova generale per moltissimi, tentativo di vacanza per milioni di italiani. Canada contro le big del tabacco, dovranno pagare oltre 12 miliardi di dollari a un milione di fumatori. Cina è corsa contro il tempo dopo l'affondamento del traghetto nel fiume Yangtze. Bien que les membres de la FIFA m'aient conféré ce nouveau mandat, ce mandat n'a pas le soutien de l'intégralité du monde du football et j'entends par là dei supporter, dei giocatori, dei club. Eccolo dunque il protagonista di questa notizia che in realtà sembrava superata. Riappare dunque Sepp Blatter, annuncia le sue dimissioni, spiega in questo intervento che per quanto appunto sia stato rieletto in realtà non sente più il sostegno dei giocatori e del mondo del pallone. Sarebbe sorprendente appunto che così non fosse. Insomma, una notizia che arriva in serata, abbiamo con noi Dario Ricci. Allora Dario, è davvero sorpresa innanzitutto? Beh, direi per la tempistica sì, Gigi, perché la rielezione sembrava in qualche modo aver socchiuso il discorso. Poi in realtà a vedere le notizie delle ultime ore e soprattutto gli incontri ai massimi livelli che anche le autorità politiche europee, l'abbiamo raccontato anche noi in Europa 24, la pressione. Esattamente, la pressione che sta aumentando intorno alla poltrona di Blatter, e allora tutto diventa un po' meno sorprendente. Cito solamente quello che è avvenuto oggi. Da un lato il New York Times che rivela che l'indagine dell'FBI tocca di fatto il numero due della FIFA, forse anzi l'uomo che ha ancora più potere di Blatter, e quello era il ruolo di Blatter prima di diventare presidente, cioè il segretario generale Falke, che è il braccio destro del colonnello svizzero e che avrebbe direttamente autorizzato il pagamento della tangente sudafricana per ottenere i mondiali del 2010. E poi un'altra notizia che forse è passata un po' sotto traccia, ma che personalmente reputo anche più interessante, è il fatto che uno dei vecchi sodali di Joseph Blatter, l'ex presidente della Federcalcio brasiliano Teixeira, stia cadendo nella rete della polizia brasiliana con accuse di riciclaggio, frode fiscale relative anche all'assegnazione e alla gestione del Mondiale 2014. Ecco, quando si cominciano a vedere questi segni premonitori si capisce allora anche meglio il contesto in cui è nata questa decisione di Blatter. Terzo elemento è quello che noi non sappiamo, cioè probabilmente Blatter, o che meglio ancora non sappiamo, probabilmente Blatter ha avuto anche sentore che dall'altro filone d'inchiesta, quello che arriva e sta arrivando dalla Svizzera relativo all'assegnazione dei mondiali di Russia e Qatar, stiano arrivando notizie magari per lui non buone, non buonissime. Ecco, la sensazione è che ancora lui possa decidere però il termine della sua uscita, addirittura parla del 2016. Questo è un altro elemento interessante, ma allora, visto che insomma permettiamoci anche di fare qualche scenario un po' di spionaggio internazionale, possiamo ipotizzare da un lato che magari le notizie che potrebbero arrivare da questo filone non vadano a intaccare direttamente la reputazione, del resto già compromessa, dello stesso Blatter. Dall'altro, chissà, magari può anche aver ottenuto una sorta di salvacondotto che gli abbia potuto permettere anche di porre delle minime condizioni per la sua uscita. Per la sua uscita. Devo dire che personalmente è quello che ho pensato quando ho visto la notizia seguita da un termine del 2016. Dario Ricci, che tra l'altro è quasi sulla via di Berlino, dove ci racconterà una finale di cui si è parlato molto anche alla Zanzara poco fa. Grazie Dario, ti risentiamo naturalmente nei giornali radio e negli approfondimenti su questa che è la notizia di apertura questa sera. L'altra notizia, e quindi proseguiamo, è invece quella che ci riporta alle amministrative, dunque alla politica e a De Luca che denuncia la Bindi. Il servizio. Il primo atto da governatore della Campania non si consuma in giunta a Napoli, ma la procura di Salerno, come promesso in campagna elettorale, Vincenzo De Luca presenta denuncia nei confronti del presidente della commissione antimafia Rosy Bindi per diffamazione, attentato ai diritti politici e costituzionali e abuso d'ufficio. Uno scontro più politico che legale. Rosy Bindi è infatti tutelata dall'immunità parlamentare e la stessa Bindi replica: quella di De Luca è una denuncia priva di ogni fondamento, un atto puramente strumentale che ha scopi diversi da quelli della giustizia e non mi crea alcuna preoccupazione. A querelare Bindi anche Sandra Mastella, finita pure lei nella lista degli impresentabili. Intanto è rebus sulla sospensione di De Luca prevista dalla Severino. Il neogovernatore chiede che il Parlamento modifichi la legge che definisce un aborto giuridico. Ma a Roma il premier Matteo Renzi ha altre preoccupazioni. Prepara la resa dei conti con la minoranza del partito alla direzione PD prevista per la prossima settimana e ribadisce: avanti con le riforme e niente elezioni anticipate. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Notizia del giorno, naturalmente, la festa della Repubblica, dunque buon 2 giugno a tutti voi, che per noi sono voci e ve ne facciamo sentire una selezione, ma anche il racconto appunto delle cerimonie ufficiali. È fantastico, emozionante, da Firenze siamo venuti per partecipare a questa giornata. Tutto quanto, i valori vengono trasmessi, poi un particolare debole per l'arma dei carabinieri, fantastico. Bellissimo, un'emozione bellissima, veramente, bravi ragazzi, fiera di essere italiana. Da Ascoli Piceno. Una cosa su tutte che è stata bella? I bersaglieri. È bellissima, è la prima volta che la vedo, è bellissima. Da dove viene? Dalla Sicilia. Tutto il corpo del ministro della difesa è bellissimo, una bella sfilata storica e importante, dare un bel segnale a tutte le istituzioni italiane di fare di bene, perché abbiamo tanti corpi, bisogna difendere giusta la patria. Festa di colori e persone in via dei Fori Imperiali, tanta la gente che si è stretta attorno alle forze armate e alla parata per il 2 giugno, quest'anno 69esima ricorrenza della Repubblica, manifestazione che si è chiusa con il passaggio della fanfara dei bersaglieri e con i corazzieri a cavallo, in precedenza i reparti di esercito, marina, aeronautica ed arma dei carabinieri e poi i corpi armati non militari dello Stato, circa 3.400 complessivamente tra uomini e donne. Omaggio particolare ai Marò, ai fucilieri Girone e La Torre, coinvolti da più di 3 anni nel contenzioso con le autorità indiane. Le forze armate sanno e sapranno rispondere alle sfide emergenti, ha sottolineato il presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricordato quanti si sono sacrificati anche con la vita durante il loro servizio. Vengono ora resi gli onori al presidente della Repubblica. Onori al presidente della Repubblica. Festa del 2 giugno della Repubblica e in via dei Fori Imperiali, in particolare dei militari, dei loro familiari e di tante persone comuni. È fantastico, emozionante, da Firenze siamo venuti per partecipare a questa giornata. Bellissimo, un'emozione bellissima, veramente, bravi ragazzi, fiera di essere italiana. Emozioni dunque per tante persone, momento particolare quello al termine del passaggio delle frecce tricolori. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questa è anche una giornata, potremmo dire ennesima giornata di attesa e di trattativa sul fronte tra Bruxelles e Atene, tra l'Unione Europea e la Grecia. Il primo ministro greco, Alexis Tsipras, ha detto che la Grecia, appunto, il suo governo ha presentato una nuova proposta. Insomma, ormai è una vicenda lunga. I creditori della Grecia nel frattempo hanno raggiunto il consenso sulla proposta da presentare ad Atene. Il punto sulla situazione questa sera ce la fa Sergio Nava. Buonasera, sì, le ultime indiscrezioni dicono che la BCE ha ampliato la linea di credito a 80 miliardi, ma sono ore, lo dicevate, probabilmente decisive dopo che il governo ellenico ha inviato le proprie proposte per un accordo definitivo. Istituzioni e creditori stanno mettendo a punto la risposta. La partita finale si gioca su due documenti prodotto di oltre 4 mesi di negoziati sulle montagne russe. Quello inviato da Syriza, che secondo alcune indiscrezioni conterrebbe sia l'obiettivo di un surplus primario per il 2015 allo 0,8%, sia tre aliquote IVA al 6, 11, 23%, e la controproposta dei creditori quasi finalizzata, che potrebbe assumere i contorni di un vero e proprio ultimatum: prendere o lasciare, accettare o fare default, in sintesi, con pochi margini di trattativa. Da parte sua la Grecia si mostra spavalda: non aspettiamo alcuna controproposta, fanno sapere da Atene, siamo noi a sottoporre piani di intesa. Per Tsipras la proposta ellenica è realistica. Il premier ellenico ha nuovamente invitato la leadership politica europea a prendere una decisione in un appello a spostare il timone di comando, togliendolo dalle istituzioni finanziarie. Al di là delle schermaglie verbali resta la preoccupazione a Bruxelles: siamo ancora lontani da una soluzione, ha ammesso il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem. Un accordo appare però necessario. La scadenza del rimborso da 300 milioni che la Grecia dovrà pagare venerdì all'FMI è solo la prima rata di una maxi pagamento da 1 miliardo e 600 milioni complessivi da versare entro fine mese. Un peso insostenibile per un paese con le casse vuote. Colpi di scena non sono da escludere nelle prossime ore. È tutto. In attesa dei colpi di scena intanto si ritardano gli appuntamenti. Poco fa un lancio d'agenzia dice previsto al momento per venerdì prossimo un incontro tra Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Mario Draghi, Dijsselbloem e Martin Schulz, dunque presidenti delle istituzioni UE, che stanno preparando il progetto di riforma dell'Eurozona in vista del vertice dei leader del prossimo 25-26 giugno. Lo indicano fonti europee, mentre sul testo del cosiddetto rapporto dei quattro presidenti sono al lavoro gli Sherpa, naturalmente di Commissione, Consiglio, BCE, Eurogruppo e Parlamento. L'appuntamento non confermato ufficialmente secondo altre fonti però potrebbe slittare proprio per evitare speculazioni sulla delicatissima situazione della crisi greca. Ed è, se la situazione appunto in Grecia è delicata, quella in Siria è drammatica ormai da anni. Nel frattempo una nota importante che arriva da Israele: l'esercito di Bashar al-Assad ha di fatto cessato di esistere, lo dice il vice capo di Stato Maggiore israeliano, il generale Yair Golan. Alla luce di questa debolezza e fin tanto che gli Hezbollah libanesi concentrano le loro forze in Siria, dice, la situazione di Israele al proprio confine nord è dal punto di vista strategico la migliore che abbiamo mai goduto, ma oltre il confine vi sono anche non pochi pericoli che secondo il generale Golan vanno tenuti in considerazione. Di questo scenario, di questa drammatica crisi siriana, torneremo a parlare più tardi con la nostra inviata attraverso i campi profughi della Giordania, Valentina Furlanetto. E adesso che abbiamo fatto le 21:15, tra qualche istante io direi di sentire insieme com'è la situazione delle strade. Dicevo all'inizio, oggi è stata anche una prova generale per molti di vacanze magari estive e di fatto, secondo i numeri che ci vengono forniti, appunto un italiano su tre almeno è deciso di godersi una giornata di relax. Vediamo allora, sentiamo la situazione sulle strade italiane. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Scandalo FIFA, Blatter annuncia le dimissioni ma sceglie i tempi della sua uscita di scena. Regionali a scontro all'interno del PD, De Luca denuncia Rosi Bindi, lei replica, è solo un atto strumentale. La mossa della Grecia, Tsipras presenta la sua proposta all'Unione Europea e al Fondo Monetario Internazionale. 2 giugno, festa della Repubblica, prova generale di vacanza per milioni di italiani. Cina è corsa contro il tempo dopo l'affondamento del traghetto nel fiume Yangtze. Ancora buonasera da Gigi Donelli questa sera al microfono, da Paolo Corleone in regia, da Cristian Goldoni in assistenza. La Cina dunque, una drammatica rovesciamento di un traghetto. Allora sentiamo il servizio, poi vediamo se ci sono aggiornamenti dell'ultima ora. I soccorritori che stanno operando nel punto in cui si è inabissato il traghetto devono combattere contro il vento e la nebbia, oltre che contro il tempo. E nonostante le avverse condizioni meteo, sono riusciti a portare in salvo altri 6 passeggeri rimasti intrappolati nel relitto della nave. Nelle immagini trasmesse dalle TV cinesi si vede l'imbarcazione adagiata su un fianco. L'acqua dello Yangtze in quel punto è profonda oltre 15 metri. Ieri notte imperversava una bufera. Delle 458 persone a bordo, molti erano anziani. Coloro che sono sopravvissuti hanno raccontato che l'imbarcazione è colata a picco in pochi minuti. Sul posto sono stati mobilitati oltre 2.000 tra militari e agenti, oltre 150 i mezzi coinvolti per il recupero. Le squadre di soccorso hanno sentito suoni provenire dall'interno del traghetto e battono con martelli sullo scafo cercando conferme all'ipotesi che provengano da persone intrappolate. Il traghetto stava facendo rotta da Nanchino a Chongqing, due metropoli nel sud-ovest della Cina. Tra le persone salvate, il capitano e l'ingegnere capo dell'imbarcazione. Prima di essere arrestati, hanno confermato che la nave è affondata rapidamente dopo essere stata investita improvvisamente dal ciclone. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grazie anche a Valeria De Rosa. Gli aggiornamenti dicono che sono ancora 405 i dispersi di questa tragedia in quello che è il più lungo fiume della Cina, il più lungo fiume d'Asia, ma che, come avete sentito, ha anche delle imponenti dimensioni e profondità. Allora, noi torniamo invece in Italia. Abbiamo parlato ampiamente, se vogliamo, dello scontro in corso in Campania. Allora, io direi di partire dalle voci. Sentiamo Rosy Bindi, sentiamo De Luca e dopodiché invece sentiamo la nostra Laura Viggiano. Io non ho fatto niente da sola, anzi, la commissione mi aveva dato mandato venerdì di fare la conferenza stampa senza riconvocare né presidenza né commissione. Io ho riconvocato presidenza e commissione, perché questo è un lavoro troppo delicato per assumersene personalmente la responsabilità. Siccome so che deve andare via, crede davvero che Renzi le chiederà scusa? Guardi, non lo so se lo farà. Io però sento di poter dire che quello che è successo nei confronti della mia persona merita un risarcimento. La querelo per diffamazione, già dato mandato all'avvocato, la sfido a un dibattito pubblico entro domani mattina perché intendo sbugiardarla e dimostrare che l'unica impresentabile è lei. Racconto la storia dei suoi sponsor politici in Campania, che sono gli esponenti della peggiore clientela politica, e quindi avremo modo di fare un'ulteriore chiarificazione politica. È del tutto evidente che questa campagna di aggressione, che sarebbe stata eccessiva anche per Totò Riina, ha un solo obiettivo: cercare di mettere in difficoltà il governo nazionale Renzi, mi pare evidente. Queste le voci, molto chiari, pesanti, anche l'emozione si sente nella voce. Laura Viggiano ci aggiorna da Napoli. Sì, buonasera. In Campania dunque si procede tra commenti e denunce. Il neopresidente De Luca, come abbiamo sentito e come dicono dal suo staff, continua sempre a lavorare per il futuro della Campania. E come primo atto questa mattina ha presentato in questura a Salerno una querela nei confronti di Rosy Bindi. De Luca chiede alla Procura di Roma di procedere penalmente per i reati di diffamazione, attentato ai diritti politici costituzionali ed abuso d'ufficio. Si tratta di una denuncia annunciata che il Movimento 5 Stelle definisce solo un'operazione mediatica scaturita dalla lista dei 16 impresentabili resa nota dalla Presidente della Commissione Antimafia venerdì scorso, lo ricorderete, poco prima della chiusura della campagna elettorale. Lista in cui è inserito anche lo stesso Vincenzo De Luca. A quanto pare la Bindi dovrà però difendersi anche da altre denunce annunciate, da Sandra Mastella, che non è stata riconfermata consigliere, e dall'eletto Luciano Passariello di Fratelli d'Italia. Dei 16 impresentabili indicati dalla Commissione Antimafia sono 3 gli eletti, tutti in Campania. Ai citati si aggiunge anche Alberico Gambino, anche lui di Fratelli d'Italia. Come immaginabile non mancheranno i ricorsi. NCD ha già comunicato e denunciato anomalie e contesta l'assegnazione di un solo consigliere invece che 2. Il Consiglio Comunale Campano sarà composto per la prima volta da 50 consiglieri, di cui 30 della maggioranza di un presidente, 12 seggi spettano alla coalizione di centrodestra che ha sostenuto Stefano Caldoro e 7 al Movimento 5 Stelle. Intanto si fanno valutazioni sui tempi che separano De Luca, condannato in primo grado per abuso d'ufficio, dal provvedimento di sospensione che dovrà essere emesso dal governo in base alla legge Severino. e che si intreccia inevitabilmente anche con lo statuto ed il regolamento del Consiglio regionale. In sintesi si ragiona sul fatto che per recepire la sospensione il Consiglio deve essere nell'esercizio dei suoi poteri, ma in considerazione poi del tipo di provvedimento e da quanto previsto dallo statuto regionale, il Consiglio potrà procedere solo dopo l'insediamento della Giunta. La questione non è semplice poiché non ci sono precedenti e dunque torneremo sicuramente a parlarne. Grazie Laura Viggiano per questo aggiornamento da Napoli. Con noi questa sera Gianluca Passarelli, docente di scienze politiche alla Sapienza, ricercatore dell'Istituto Cattaneo. Buonasera innanzitutto. Buonasera a lei, grazie per l'invito e buonasera agli ascoltatori. Allora, De Luca dice, tra l'altro, ha condizionato il voto. A vedere il risultato, per quanto lo riguarda, non si direbbe. Lei cosa ne pensa? Ma è sempre abbastanza complicato inserire dei ragionamenti su questioni così complesse, come ha ben illustrato la vostra giornalista, a poco tempo dal voto. E io credo che i campani conoscessero nel bene e nel male il candidato De Luca, come certo conoscevano bene Caldoro, e questo è un elemento che spesso viene tralasciato, cioè è un elemento lampante. Si trattava di elezioni regionali, di elezioni amministrative, e gli elettori si orientano a scegliere in base all'offerta locale. Dopodiché è assai probabile ragionare su un'influenza sul voto addirittura al di là dei confini della campagna, probabilmente molto più incisivo al di là dei confini della campagna, proprio perché delle notizie che arrivano, diciamo, da lontano, mediate dalla televisione, dai mezzi di comunicazione, lasciano un'immagine di dubbio, di turbamento, soprattutto per un elettorato che è quello di centrosinistra, che notoriamente era o è in parte ancora più esigente rispetto ai propri candidati, e quindi può essere stato indotto a smobilitarsi o a non mobilitarsi. Ecco, De Luca ben noto all'interno del suo territorio, per intenderci, meno, anche se noto naturalmente, ma chiaramente in maniera più indiretta, quindi lei dice l'impatto tutto sommato potrebbe essere stato forte altrove. Allora veniamo al vostro ultimo lavoro, insomma la ricerca elezioni regionali 2015, racconta, sì, lei parlava del Partito Democratico, i numeri sono sintetizzati con un dato impressionante, meno 2.143.003. Sì, tanto. I numeri assoluti sono negativi per il Partito Democratico, dopodiché va segnalato che si trattava appunto di elezioni regionali, di elezioni come dire di metà mandato in qualche misura rispetto al governo, e noi sappiamo che sono elezioni che di solito sanzionano il governo in carica. Gli elettori lanciano un messaggio, è stato chiaro ad esempio in Spagna, in Francia nelle scorse settimane, però si trattava di elezioni locali e, come dicevo prima, conta il ruolo dei candidati, e quindi i vari Zaia, i vari Rossi, i vari De Luca di cui parlavamo prima, e alla fine però si contano quanti presidenti ha vinto ciascuno schieramento, e il Partito Democratico ha vinto. Chiaramente c'è la sconfitta della Liguria, che è simbolica, importante, fa male credo al centrosinistra e a Renzi, perché è una regione a zona rossa, c'è diciamo un sodale di Berlusconi che vince, secondo me suo malgrado, perché non credo che Toti voglia occuparsi di trasporti, di urbanistica, dopo essere stato il portavoce del leader di Forza Italia. Cambia pelle radicalmente, non so se sia in grado di farlo, francamente bisogna lavorare. Questo staremo a vedere, ma questo sono... a vedere. Non possiamo dirlo. E dopodiché, come dire, candidare alcuni esponenti può essere stata una mossa negativa, sia nel caso della Liguria, sia nel caso del Veneto. Il candidato del centrosinistra in Veneto ha preso pochissimo, e quindi questo non credo sia ascrivibile, addebitabile solo alle vicende paragiudiziarie. Ecco, come De Luca è ben noto, dall'altra parte Zai è ben noto, quindi di nuovo da una parte mi sembra che descriva che l'Italia si deve abituare un po' al concetto del midterm all'italiana, cioè in America è abbastanza normale, sì, chi vince poi viene messo, diciamo, un po' in asse dall'elezione successiva. Qui potrebbe accadere la stessa cosa, dall'altra parte la notorietà rende sempre. La notorietà rende sempre, ma anche l'apprezzamento. Certo, notorietà positiva. Poche settimane fa, per quanto possano valere i sondaggi, era apprezzato dal 60% dei veneti. È stato ministro dell'agricoltura, ha operato bene, lo dicono sia da destra che da sinistra. E quindi pragmaticamente i veneti hanno scelto in misura maggioritaria Zaia piuttosto che l'altro candidato del centrosinistra, cioè sapevano benissimo quale fosse la posta in palio, al di là di Renzi. Quindi cioè, la sconfitta del centrosinistra in Veneto non è una sconfitta di Renzi. Ovviamente non sto difendendo Renzi e non sto elogiando Zaia, semplicemente sto provando ad analizzare da tecnico quello che ho sotto gli occhi. I numeri. Viceversa, in Toscana hanno votato per Rossi, il PD da solo ha avuto oltre il 40%, non aveva liste di sostegno e così via. La lista a sostegno della candidata di centrosinistra in Veneto ha preso poco più del 3%. Quindi c'è questa dynamica locale che non viene, secondo me, enfatizzata abbastanza. Insomma, e Zaia probabilmente potrebbe essere un leader del centrodestra, un leader presentabile molto più di Salvini. E chissà che nelle prossimi mesi non si debba appunto arrivare un po', attraverso anche i due personaggi che ha citato, a una scelta di leadership nel centrodestra. Io ringrazio Gianluca Passarelli, lo ricordo, docente di scienze politiche, ricercatore all'Istituto Cattaneo, di essere stato con noi. 21:30, è tempo di fare una pausa, di sentire il meteo insieme, poi ritorniamo con la seconda parte di Effetto Notte. Notte, le notizie in 60 minuti. Scandalo FIFA, Blatter annuncia le dimissioni ma sceglie i tempi della sua uscita di scena. Regionali scontro all'interno del Partito Democratico, De Luca denuncia Rosi Bindi, lei replica è solo un atto strumentale. La nuova mossa della Grecia, Tsipras presenta la sua proposta all'Unione Europea e al Fondo Monetario Internazionale. 2 giugno, festa della Repubblica, e c'è anche una prova generale di vacanze per milioni di italiani. Ancora buonasera, mentre sono le 21:35. Buonasera da Gigi Donnelli questa sera al microfono. Abbiamo accennato nella prima parte a quelle che sono le grandi crisi internazionali, sicuramente su tutte nella regione appunto più vicina a noi, quella della Siria, dove la guerra civile attraversa ormai da 4 anni una fase acuta che si sussegue ad un'altra fase acuta, e ciò che produce è un'ondata di profughi, un'ondata di famiglie, di civili, di bambini, di anziani. Nei giorni scorsi abbiamo addirittura raccontato di un fuggiasco ultra novantenne, insomma una situazione drammatica. La nostra Valentina Furlanetto è in Giordania, la raggiungiamo e ci racconta l'esperienza che ha avuto appunto in questi giorni visitando quelli che sono ormai delle vere e proprie città, i campi profughi appunto dei siriani nel territorio giordano. Sì, in effetti la Giordania ospita sul suo territorio 628.000 profughi siriani scappati in seguito alla guerra in Siria, quindi addirittura il 10% della popolazione totale della Giordania. Noi siamo stati a Zaatari ieri, che è il secondo più grande campo profughi del mondo dopo quello del Kenya, e oggi a Azraqt, che è più piccolo, 14.000 persone ospitate. Ve lo dovete immaginare come se fosse sulla Luna, è veramente un un paesaggio lunare, desertico, soltanto un deserto di sassi, mosche, caldo, molto denso, container quindi molto sovraffollati, ovviamente caldi, dove queste persone cercano di sopravvivere. È veramente un posto inospitale, distante circa 6 ore di macchina dall'Iraq e un paio d'ore dalla Siria. Fuggono le persone che arrivano qui, fuggono proprio dall'ISIS, dall'ISIS, dallo Stato Islamico. Una di loro che abbiamo incontrato è Zahra, che scappava dalla città di Raqqa, è arrivata 6 mesi fa insieme ai 3 figli, il marito è rimasto in Siria a combattere, ha 35 anni e lei ci raccontava proprio delle scene terribili che ha visto sul mercato di Raqqa, persone decapitate, anche suoi parenti. Ieri invece Gigi siamo stati al confine, una cosa abbastanza difficile per la quale l'UNICEF che era con noi ha lavorato molto, perché siamo arrivati proprio nella zona militare di Tal Shiab, dove si vedeva proprio sventolare la bandiera del Free Syrian Army e quindi si riusciva a capire proprio, questo era è un valico chiuso ufficialmente, ma diciamo non ufficialmente, qualche ferito riesce ogni tanto a passare con la collaborazione delle ONG, dell'esercito, qualche bambino soprattutto ferito, perché la Giordania ha firmato la convenzione per i diritti per i bambini e quindi hanno un lasciapassare leggermente più facile, diciamo così. Questi bambini arrivano molte volte mutilati e quindi hanno bisogno di soccorso e vengono assistiti in questi due campi principalmente. Ecco, Al-Zaatari ci raccontavi il secondo campo per popolazione del mondo. Volevo chiederti una cosa prima di avere qualche dettaglio in più su questo luogo. In queste giornate a Milano, ma non solo, insomma, stiamo registrando l'arrivo dell'estate, il grande caldo. Che temperature ci sono in quei luoghi? Sì, come puoi immaginare Al-Zaatari, ma anche e ancora di più il campo di oggi di Akrabat hanno veramente delle temperature molto alte, è un clima più secco, più ventilato di quello dell'Italia, però chiaramente dentro questi container la situazione è molto difficile. Dovete immaginarvi dei posti dove le mosche sono molto più numerose delle persone, ecco, per rendere l'idea. Al-Zaatari ha per fortuna latrine sufficienti per le famiglie, però ad esempio c'è un grosso problema, quello dell'acqua, un po' in tutta la Giordania l'acqua è preziosissima, ci sono dei camion che arrivano con l'acqua, quindi ovviamente i costi sono molto alti, le persone si contendono l'acqua, non c'è ad esempio l'elettricità, quindi ovviamente non ci sono condizionatori. Ecco, queste persone chi sono? Noi abbiamo avuto, attraverso naturalmente le immagini della televisione, attraverso le nostre interviste realizzate anche da te stessa alla stazione centrale di Milano, un'impressione forte di una comunità, diciamo borghese, piccolo borghese, chiamatela come vi pare, di professionisti e di, insomma, un mondo molto diverso da quello della grande fuga da alcuni paesi dell'Africa. Guarda, quelli che si rifugiano in Giordania sono prevalentemente persone con un background rurale, probabilmente le persone che hanno più disponibilità economica, quindi borghesi, professionisti, riescono a pagare i trafficanti di uomini per andarsene, per riuscire a raggiungere l'Europa. Le persone che noi abbiamo incontrato qui sono persone già di per sé probabilmente povere, erano già povere in Siria, soprattutto le persone che si trovano sulla Valle del Giordano, in questi insediamenti illegali, fuori quindi dai campi, perché i campi ospitano circa 150.000 rifugiati, mentre dicevamo in Giordania ce ne sono 628.000, quindi la maggior parte è invisibile, sta in questi campi illegali, quindi sotto delle tende. Nella Valle del Giordano si insediano soprattutto per poter lavorare nelle numerose serre che ci sono in quell'area, però chiaramente i bambini lì non vanno a scuola, lavorano nei campi, raccoglievano l'altro giorno quando siamo stati in questi campi il peperoncino, che è una delle coltivazioni della zona, e vivono in una situazione molto difficile. Alcuni di loro non hanno idea dell'Italia, abbiamo chiesto loro cosa sanno dell'Italia, dell'Europa, ed è un sogno molto lontano, quindi probabilmente le persone che riescono ad arrivare da noi hanno tutto sommato un livello economico un pochino più alto delle persone che abbiamo visto qui. E quindi hanno anche un'idea appunto sulla proiezione o comunque su questo sogno dell'Europa. Un'ultima battuta, che cosa si aspetta, che cosa si aspettano queste persone? Insomma, attendono semplicemente di poter rientrare? attendono di poter entrare e molti rientrano incredibilmente nonostante il pericolo, la guerra, i bombardamenti da parte del regime e invece nella zona occidentale la presenza di ISIS, rientrano molti e questa è una tendenza in atto o vanno oltre confine, perché la situazione in alcuni campi, in particolare quest'ultimo campo che dicevamo, è molto difficile, in mezzo al deserto, senza nulla da fare. Tra l'altro una cosa che non ho detto è che questi rifugiati, quando hanno lo status di rifugiati, non possono lavorare legalmente, quindi per loro è difficile sopravvivere con i soldi, i voucher che vengono dati dal governo o dalle ONG. Oggi una famiglia ci ha fermato lungo il campo di Azraq, erano molto arrabbiati, ci sono a volte delle rivolte all'interno dei campi perché non riesce questo padre di famiglia a sfamare la famiglia con i 20 dinari giordani che gli vengono dati al mese e lui non può lavorare, e intorno al campo profughi di Azraq, a differenza di quello di Al-Zaatari, non c'è nulla da fare, c'è deserto, per 17 chilometri si cammina senza trovare nulla, quindi queste persone sono veramente disperate e alle volte escono illegalmente dal campo e passano il confine, tornano in Siria perché la prospettiva anche all'interno dei campi è molto brutta, è molto difficile. Per mettere fine a questa ormai lunghissima attesa, grazie a Valentina Furlanetto, buon lavoro e grazie ci a voi. Risentiamo nei prossimi giorni, ancora buon lavoro. Europa 24 notte. Il Catania, protagonista di quattro partite sospette di combina, a denunciare il club siciliano è il rapporto 2015 di Federbet, Federazione Europea di Contrasto al Match Fixing, presentato oggi al Parlamento Europeo di Bruxelles. A febbraio Federbet, ha detto il segretario generale Francesco Barranca, ha denunciato alla polizia di Busto Arsizio diverse partite di Lega Pro. La settimana prossima denunceremo agli inquirenti anche le partite del Catania. Allora, il segretario di Federbet, Francesco Barranca, intervistato da Dario Ricci. Ma questa segnalazione, come tutte le segnalazioni che sono oggetto di richiesta di verifica da parte di Federbet, riguardano dei flussi anomali su scommesse sportive, e in questo caso, in quest'annata, coinvolgono quattro partite del Catania, tra cui l'andata e il ritorno di quella col Trapani, quella con la Ternana e la penultima di campionato con il Cittadella. Due sono già state oggetto di denuncia formale presso la procura di Busto Arsizio e le altre due verrà formalizzata una denuncia più precisamente la prossima settimana, vedendo dove verrà tratta la competenza, perché alcune delle denunce depositate a Busto Arsizio si sono intersecate con l'indagine Dirty Bet presso la procura di Catanzaro. Ci sono altre segnalazioni in merito ad altre partite di altre squadre della stagione in corso per quanto riguarda il calcio italiano? Sì, delle partite di Lega Pro che coinvolgono come attrice principale la Pro Patria, e alcune di queste partite che noi abbiamo denunciato alla procura di Busto Arsizio sono già finite sotto la lente di ingrandimento della procura di Catanzaro, quindi la dimostrazione che i dati che noi possiamo osservare riguardando i flussi anomali spesso poi trovano conferma, tragica conferma, nelle indagini da parte degli inquirenti. Situazione difficile in Italia, ma certo non migliore in tanti altri paesi europei, anche paesi insospettabili, viene da dire, vero? Assolutamente sì, quest'anno abbiamo utilizzato un metodo di report differente, non più segnalando tutte le partite, perché in determinati campionati ormai sarebbe più facile trovare quelle non truccate che quelle truccate, ma raccontando delle storie interessanti come l'amichevole fantasma del Portogallo, storie drammatiche come quella del campionato greco, del campionato portoghese della seconda divisione, e storie che coinvolgono paesi come la Svezia e il Canada, che sono tra i meno corrotti, tra i cinque paesi meno corrotti del mondo, ma che hanno un grossissimo problema legato al match fixing. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Abbiamo fatto le 21.46, è tempo di sentire gli aggiornamenti per chi è in viaggio. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Scandalo FIFA, Blatter annuncia le dimissioni dopo 17 anni, ma sceglie i tempi della sua uscita di scena. Regionali, scontro all'interno del PD, De Luca denuncia Rosi Bindi, lei replica è solo un atto strumentale. La mossa della Grecia, Tsipras presenta la sua proposta all'Unione Europea. Eccoci qua dunque, Blatter che si arrende, come ormai titolano le agenzie, e lo fa dopo 17 anni di quelle che oggi sono di quella che oggi è diventata dittatura. Era regno, ma negli ultimi giorni è entrato in un'altra categoria. Ma noi invece parliamo d'altro, e vi parliamo di una notizia meno vistosa negli ultimi giorni. Pensate, la Malaysia Airlines e il governo della Malesia hanno pagato oggi a una famiglia malese il primo risarcimento relativo alla scomparsa del volo MH370 Kuala Lumpur Pechino, il volo naturalmente della compagnia aerea, che è sparito l'8 marzo del 2014 con 239 persone a bordo. Si tratta del primo risarcimento legato al disastro. Tutto questo mentre stesse ore la Russia, Mosca afferma in sostanza che l'aereo della Malaysian Airlines, in questo caso abbattuto in Ucraina orientale il 17 luglio del 2014, è stato colpito da un missile Buk M1 e accusa le forze armate di Kiev. Come sapete, su questo drammatico evento dell'aviazione civile le accuse sono reciproche. Di fatto la Malaysian Airlines, coinvolta drammaticamente in due episodi, ieri ha dichiarato di essere tecnicamente fallita. L'ha annunciato il nuovo amministratore delegato tedesco della compagnia aerea, annunciando tra l'altro la soppressione di 6.000 posti di lavoro. Ha detto: siamo tecnicamente in fallimento, il calo delle performance è iniziato ben prima dei tragici eventi del 2014. Insomma, ci chiediamo: è possibile sopravvivere a questi eventi drammatici per una compagnia aerea? Ci aiuta un po' a fare il quadro di questa situazione Oliviero Baccelli, che è docente di economia e politica dei trasporti all'Università Bocconi, coordinatore del Master in Economia e Management dei Trasporti, della Logistica, dell'Infrastruttura. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Allora, si può sopravvivere a eventi di questa portata, cioè una sequenza in questo caso disastrosa, da una parte sicuramente umana, dall'altra con un grande punto interrogativo, o è un destino scritto? Ma diciamo che nella storia dell'aviazione civile quanto è accaduto a Malaysia Airlines non è accaduto a nessun'altra compagnia aerea, nel senso che due episodi di questo genere non sono mai accaduti in una sola compagnia. In passato Pan Am era stata oggetto, la compagnia aerea americana era stata oggetto di un attentato, l'attentato di Lockerbie, che aveva decisamente colpito l'opinione pubblica e aveva sicuramente impattato in quelle che erano già fragili situazioni del contesto americano di Panama. Quindi sicuramente si può sopravvivere. Germanwings, che è la compagnia aerea tedesca che è stato oggetto di un drammatico episodio di questo tipo negli scorsi mesi, sta sopravvivendo. Sicuramente per due episodi è ancora più difficile, soprattutto quando sono impattati mercati ad alto potenziale, come appunto quello fra la Malesia e la Cina, dove è avvenuto il primo degli incidenti, e sulle direttrici dove c'è una grande concorrenza come quelle fra l'Europa e il sud-est asiatico, come è stato il caso del secondo episodio. Quindi due mercati particolarmente rilevanti per Malaysia Airlines. Ecco, Pan Am che lei citava, 21 dicembre 1988, il disastro di Lockerbie. In quel caso fu poi reso noto un episodio di terrorismo che coinvolgeva i governi, in particolare la Libia. Di fatto Pan Am durò due anni. Di quella fase storica ci fu anche il volo dell'UTA, il volo francese 772 sul deserto del Sahara, ancora una volta un attentato terroristico. Anche in quel caso di fatto la compagnia chiuse i battenti nell'arco di un paio d'anni. Lei ha citato dunque il drammatico volo Germanwings 95, qui siamo davvero l'altro ieri, 24 marzo 2015. Lei ha detto di fatto sopravvive, però è anche vero che sono passati davvero non giorni, ma insomma un centinaio di giorni scarsi. Che impatto, come dire, si può continuare a volare con una compagnia che porta una sorta di stima, ammesso che lei lo valuti tale, insomma, che un'ombra così pesante, i passeggeri voltano pagina, sono in grado di farlo, oppure preferiscono magari anche solo un cambiamento cosmetico del nome? Ma a dire il vero, nel corso della storia dell'aviazione civile sono accaduti anche episodi similari ad Air France e quindi anche a tante altre compagnie che non hanno chiuso, non ne hanno risentito. Il tema vero è se ci sono delle alternative sulle medesime rotte e il grado di competizione, perché se i passeggeri possono scegliere, sicuramente soprattutto in alcuni contesti come quello fra la Malesia e la Cina scelgono altri vettori e quindi il danno economico è particolarmente significativo. In altri contesti si cerca di far dimenticare, il passeggero poi supera questi episodi, come ad esempio è accaduto sulle direttrici fra il Brasile e la Francia, nonostante l'incidente di Air France che fu particolarmente drammatico. Quindi si possono superare. A proposito di Germanwings, qui c'è anche il caso che credo coinvolga per la prima volta una compagnia low cost. Questa è anche un po', come dire, ci dà il senso che ormai i consumatori abbiano totalmente equiparato, non esiste più una differenza, oppure esiste ancora di percezione tra quelle che una volta avremmo chiamato compagnia di bandiera e quelle invece low cost? Ah, ovviamente ci sono delle differenziazioni molto elevate. Alcune delle low cost europee hanno ad esempio un'età media della flotta particolarmente bassa e hanno sistemi di sicurezza che sono del tutto paragonabili a quelle delle compagnie aeree di tipo storico. Quello che emerge in altri mercati, fra cui ad esempio quello del sud-est asiatico dove opera Malaysia Airlines, è un continuo fiorire di low cost di diverso tipo, alcune delle quali si trovano in situazioni assolutamente deboli sin dall'inizio e quindi i risparmi anche sui temi della sicurezza possono essere complicati e difficili da gestire. Sono ad esempio i casi di alcuni vettori indonesiani o altri vettori filippini, per cui bisogna vedere la compagnia, il mercato di riferimento su cui opera e come intervengono gli organismi di vigilanza di questi mercati, per cui bisogna assolutamente differenziare e tener conto dello specifico contesto. Ecco, a questo proposito, in conclusione, gli utenti sono più tutelati a suo avviso rispetto a un paio di anni fa? Periodicamente escono delle blacklist, poi tendenzialmente, almeno credo in molti, siamo portati a dimenticare i nomi soprattutto di piccole compagnie che magari incrociamo fuori dall'Europa. I viaggiatori sono più tutelati oggi? Ma sicuramente a livello europeo. A livello europeo si è fatto di tutto, compresa appunto questa blacklist in cui sono finiti anche ad esempio dei vettori indonesiani che un tempo venivano considerati anche di una certa fama. E i controlli a livello internazionale si sono intensificati anche perché le case produttrici di aeromobili intervengono molto più spesso in maniera diretta. È chiaro che però in alcuni contesti ipercompetitivi e magari in forte sviluppo, come appunto dicevo, alcune delle aree della zona del sud-est asiatico, i problemi permangono. Grazie a Gianluca Passarelli, lo ricordo, docente di scienze politiche. No, chiedo scusa, ovviamente ho incrociato i nostri ospiti, qui stiamo parlando di aerei e quindi ringrazio il nostro ospite Oliviero Baccelli della Bocconi che ci ha dato questi aggiornamenti e dunque anche legati a quello che è la sicurezza del volo, che poi è il tema che interessa più di tutto tutti noi. È tutto per Effetto Note, noi ci risentiamo tra qualche istante per i titoli. Grazie a tutti voi per essere stati in ascolto.